Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. È il primo impianto a biogas d'Europa capace di produrre separatamente idrogeno e metano. Sta operando a Soliera, in provincia di Modena, ed è nato dal brevetto relativo al procedimento di digestione anaerobica bistadio depositato da Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, e CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura. Ne parliamo con Piero Gattoni, presidente del CIB, il Consorzio Italiano Biogas. Buonasera Gattoni, bentornato. Buonasera Melis, buonasera a tutti. Allora Gattoni, per cominciare, che cos'è questa fermentazione bistadio e che cos'ha di diverso questo processo dal processo abituale, quello che già si svolge normalmente negli impianti a biogas? Ma è un'innovazione nel processo di digestione anaerobica che è di fatto un processo molto naturale, perché avviene è la produzione di biogas, quindi gas biologico in assenza di ossigeno. Bisogna immaginare come un grande stomaco, no? Quindi un grande stomaco che un grande rumine di una vacca che viene alimentato e attraverso la fermentazione batterica produce il gas. Allora, qual è il tema? Che durante la fermentazione ci sono diversi stadi, diverse colonie batteriche che hanno diverse produzioni. Nella separazione, nel prima fase, la fase idrolitica che produce idrogeno, dalla fase successiva che produce metano, abbiamo la possibilità di aumentare l'efficienza del processo e specializzarlo. Questa è un po', diciamo, l'innovazione di cui stiamo parlando, che dimostra quanto spazio ancora ci sia oggi di conoscenza della biologia che avviene nei nostri grandi digestori. Ecco, quindi queste cupole verdi, che spesso verdi, non sempre, non necessariamente, ma spesso verdi, che siamo abituati a vedere ormai in campagna, no? Sono questi digestori anaerobici. In pratica voi dite spezzate il processo in due momenti: un primo momento in cui fate agire certi microorganismi che producono idrogeno e un secondo momento in cui fate agire altri microorganismi che invece producono tipicamente il metano. Ecco, tenere separati questi due momenti significa aumentare la resa del processo. Di quanto? Ma dovrebbe essere intorno tra il 10 e il 20%. Questa percentuale è una percentuale che è variabile. Le cose però importanti di questo processo, di questa innovazione, è che viene innanzitutto separato l'idrogeno dal metano e quindi abbiamo la produzione comunque di idrogeno, che come sappiamo è una produzione pregiata. Certo. E la seconda importante innovazione è che questo percorso ci permette di essere più flessibili nella nostra alimentazione dei digestori anaerobici, e soprattutto in un momento come oggi, dove noi abbiamo puntato con il biogas fatto bene a utilizzare soprattutto sottoprodotti, colture di integrazione e effluenti idrotecnici, è come se avessimo portato intorno al nostro grande stomaco un'alimentazione molto più composita rispetto alla precedente, che era più invece molto semplice e quindi poteva essere gestita in maniera più semplice. Per questo l'innovazione, la ricerca è importantissima per farci capire meglio quali sono in effetti i processi biologici che avvengono nei nostri digestori per poter essere più efficienti. Ecco, proprio perché le varie popolazioni digeriscono meglio alcune cose piuttosto che altre, no? Sì, è un po' come quando i nostri nutrizionisti ci consigliano per esempio di non mangiare la frutta durante i pasti, perché la frutta ha un percorso che è più lungo da digerire rispetto, non so, alla pasta o altre cose. Quindi di fatto noi utilizzando diverse realtà, diverse matrici, diversi prodotti, soprattutto sottoprodotti che sono più complicati da avere. Per esempio quali? No, io non so, per esempio il siero di latte, so che è una di quelle cose difficili, per esempio, no? Il siero di latte, ma mi viene in mente soprattutto le buccette le polpe di barbabietola, piuttosto che le buccette di pomodoro, piuttosto che il pastazzo o la salsa di olive. Quindi a seconda del territorio, l'agroindustria italiana è una grandissima fornitrice di sottoprodotti, però queste sottoproduzioni hanno bisogno di essere gestite in maniera più attenta nel momento in cui hanno magari una tempistica di, biologica diversa rispetto, per esempio, alle culture normali. Ecco, quindi insomma questa separazione su due stadi consente di gestire, per esempio, tempi diversi, di matrici diverse, ecco, è uno degli effetti collaterali che comunque complessivamente rende più sostenibile il business nel suo complesso. Duca Gattoni, rispetto a questa tecnologia che si sta sperimentando in provincia di Modena, vorrei capire se è immaginabile fare anche una specie di retrofit, cioè è possibile immaginare che gli attuali impianti a biogas vengano poi modificati per questo processo bistadio, o bisogna ricostruire tutto da zero? No, assolutamente si potrà eventualmente lavorare anche sugli impianti esistenti, quindi è immaginabile che in futuro la ricerca ci porti ad avere soluzioni applicative migliori anche su le applicazioni che sono già che abbiamo già nelle nostre aziende. Da qualche anno, devo dire, ormai si sta anche un po' sfiorando il ridicolo, perché si parla di immissione in rete del biometano da forse 5-6 anni ormai, e ogni volta manca qualcosa, manca una leggina, manca una norma per poter realmente concretizzare questa prospettiva, che però adesso dovrebbe davvero essere dietro l'angolo. È dietro l'angolo, nel senso che il nostro governo ha appena redatto un decreto di supporto per il biometano in trazione, e attualmente questo testo normativo è al vaglio della comunità europea, okay, della DG Comp. Quindi noi stiamo aspettando che finisca questo ulteriore passaggio burocratico per avere poi il via libera ai cantieri. Via libera ai cantieri che stanno partendo, forse qualcuno è già partito in attesa che arrivino le varie autorizzazioni, e questo significa anche un'ondata di nuove tecnologie tra i vostri soci nelle imprese agricole italiane, che sono tra quelle che più hanno adottato il biogas. Significa una grande possibilità per sfruttare al meglio, anche a livello di aziende agricole, la produzione di biogas nel modo più efficiente, cioè potendo avere non la produzione solo di energia elettrica e termica, ma anche la produzione della molecola del biometano, che una volta raffinata dal biogas può essere immessa nella rete. Quindi tutti quelli che sono le tecnologie che riguardano questa fase di raffinazione sono tecnologie nuove che noi stiamo studiando e che, per esempio, verranno presentate l'8 novembre a Rimini durante la Fiera di Ecomondo, durante il convegno della piattaforma biometano nazionale. C'è qualcosa che ci può anticipare di queste tecnologie? Ma in particolare sarà importante fare un focus su quelle che sono le tecnologie che permettono la raffinazione del biogas in biometano. Quindi quali sono le tecnologie che permettono di separare la molecola del biometano dalla molecola di CO2? Ce ne sono diverse, in particolare ce ne sono alcune che procedono con dei meccanismi fisici come le membrane, perché la molecola di CO2 è più grande di quella di metano, oppure ci sono delle separazioni che avvengono utilizzando acqua, quindi delle torri d'acqua, oppure attraverso dei prodotti chimici che funzionano catturando la CO2 e separandola così dal biometano. Tutte tecnologie nuove che abbiamo il piacere di ospitare a Rimini. Molte sono socie del Consorzio Italiano Biogas e noi oggi, come imprenditori agricoli, stiamo affrontando questa nuova sfida per poter utilizzare al meglio i nostri impianti. Grazie Gattoni. Grazie a tutti voi, arrivederci. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento domani. A voi tutti, buona serata.